Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di Open Data stasera, grandi basi di dati di cui molto si parla, rese liberamente fruibili attraverso la rete, dati di tipologie molto variabili, a partire però dai dati relativi alle attività della pubblica amministrazione. Ebbene, ieri sera abbiamo visto che inizialmente la partita molto promettente degli Open Data è stata affrontata in modo molto superficiale dalle pubbliche amministrazioni, e così si spiegherebbe anche come mai, a parte qualche ricaduta in termini di trasparenza appunto nella pubblica amministrazione, che effettivamente già si vede, quanto ai tanti servizi e nuovi business promessi si vede poco o nulla. Allora stasera cercheremo di capire alcuni degli ingredienti di un Open Data di successo, sempre con l'aiuto di Marin Jansen, esperto di tecnologie applicate alle decisioni politiche, professore dell'Università di Delft in Olanda. Sentiamo. In un articolo di 2 anni fa, lei evidenziava come molti degli open data messi in rete dalla pubblica amministrazione non offrissero agli utenti la possibilità di dare un feedback. All'epoca si riscontrava la difficoltà ad avere un feedback. I dati venivano pubblicati, ma non c'era nessun meccanismo che permettesse di ottenere informazioni su chi li utilizzava. Oggi stiamo introducendo su piccola scala strumenti che garantiscono un ritorno di informazioni alla pubblica amministrazione, su come questi dati sono utilizzati e su chi sono gli utilizzatori. Abbiamo adesso interfacce e strumenti informatici che abbassano e facilitano il livello di accesso a questi database. Per esempio, l'Agenzia Nazionale di Statistica ha degli strumenti online che consentono ricerche su dati statistici, come diagrammi e correlazioni di dati, studiati per aiutare l'utente ed agevolarlo nella ricerca. Contemporaneamente l'agenzia può capire chi li usa e come li usa e migliorare gli strumenti messi online a disposizione degli utenti. Questo vale anche per gli open data. Nuovi servizi possono consentire al cittadino utente di ricavare più facilmente informazioni da questi dati. Inoltre, e questo è proprio dei meccanismi di feedback, si accumula un bagaglio di esperienza che consente di imparare anche andando a vedere come determinati problemi siano stati superati da altri. Questo approccio si può applicare a qualsiasi livello, nell'offerta di servizi per ottenere più trasparenza e anche nel campo dell'innovazione. Ecco, sempre riagganciandoci a ieri, dicevamo che mentre qualche effetto in termini di trasparenza della pubblica amministrazione che già si vede, ci sono pochi nuovi servizi o tantomeno nuovi business nati dagli open data. Lei ha qualche esempio? Beh, per esempio, se si vuole fare l'imprenditore di iniziare un nuovo business, ci sono open data che ti aiutano a localizzare la tua attività. Ti dicono dove si trovano i tuoi concorrenti e dove si trovano tutte le altre imprese che possono interessarti in quanto potenziali clienti o fornitori, ed offrono aggiornamenti sulle procedure a cui devi adempiere. Il sistema naturalmente consente anche di individuare le diverse tipologie di aziende divise per settore merceologici, così diventa più facile avviare la propria attività. Però immagino che per offrire questo servizio al mercato qualcuno si sia preso la briga di lavorare, diciamo così, dati grezzi. Proprio così. Qui abbiamo un esempio di partnership pubblico-privato. La pubblica amministrazione mette a disposizione i dati che poi vengono elaborati ed incrociati per produrre un servizio efficiente per chi ha interesse a sfruttare questi dati. Abbiamo quindi bisogno di pubblica amministrazione, aziende e cittadini che insieme diano senso a tutto questo. Senta, gli open data sono considerati lo strumento principe del cosiddetto open government. Mi dica una cosa, dietro questa parola c'è l'idea di una sorta di democrazia diretta? Domanda alquanto difficile. L'open government è aprire il governo, la pubblica amministrazione in generale, e vedere cosa c'è dentro, in modo che i cittadini possano discutere e valutare quello che viene fatto, come vengono spesi i soldi, come e quali decisioni vengono adottate. E questo determina indubbiamente maggiore democrazia diretta. Di contro è chiaro che quando parliamo di partecipazione questo dà spazio anche a lobbisti e portatori di interessi vari. Per questo però abbiamo il nostro sistema democratico. Il politico eletto deve fare gli interessi della sua comunità, deve avere come valori gli interessi di tutti e non guardare a quelli particolari di lobbisti o individui particolarmente bravi a lamentarsi. Ma lei non pensa che alla fine sarà irresistibile per tanti politici la tentazione di seguire di volta in volta, diciamo, questa opinione pubblica più rumorosa? Guardi, il politico non è eletto da un gruppo ristretto di persone, ma dalla massa. Perciò se vuole essere rieletto deve poter dialogare con i propri elettori e rappresentare tutti. E dopo tutto un buon politico dovrebbe capire i bisogni dei propri elettori senza bisogno di troppe complicazioni tecnologiche. Questo è tutto, buona serata, appuntamento con Smart City a domani sera.